di Dario Ricci. A Fiume, oggi la croata Rijeka, non ci sono le celebrazioni per ricordare l'impresa di 100 anni fa di Gabriele D'Annunzio, impresa che invece ricorda l'Italia perché ne ha segnato la storia, un'impresa quasi unica nella storia contemporanea, in modo particolare perché vede un poeta conquistare una città e governarla. È vero che quel poeta è D'Annunzio e che i legionari che entrarono a Fiume il 12 settembre del 19 obbedivano solo a lui. Circa 2600 uomini di alcuni reparti del Regio Esercito entrarono nella città adriatica contesa tra Regno d'Italia e quello di Jugoslavia. L'impresa fiumana raggiunse l'epilogo con l'approvazione del Trattato di Rapallo del 1920. L'opposizione dei dannunziani all'applicazione del trattato portò il governo Giolitti ad intervenire con la forza nell'ormai famoso Natale di sangue. Un viaggio nel tempo lungo un secolo, quello che facciamo oggi a Olimpia. Un viaggio che collega il presente con un campionato più avvincente che mai, che vede Juventus, Lazio e Inter in corsa per lo scudetto, col passato, ai giorni in cui 100 anni fa, nel febbraio 1920, proprio quel triangolino di stoffa tricolore apparve per la prima volta sulle maglie di una squadra di calcio, da cui poi passerà qualche tempo dopo su quelle della squadra campione d'Italia. Un viaggio che, come avete sentito, affonda le radici in quella città chiamata allora dagli italiani Fiume e che è oggi Rijeka in Croazia. Città che Gabriele D'Annunzio, il vate della letteratura italiana, di fatto annette con la forza all'Italia, quasi contro lo stesso volere dei Savoia, trasformandola tra il settembre 1919 e il dicembre 1920 in una città autonoma sotto il suo controllo diretto. Fin quando i legionari d'annunziani non vengono cacciati con la forza in seguito al Trattato di Rapallo che istituisce lo Stato libero di Fiume, che dopo varie vicissitudini venne annesso poi alla fine della Seconda Guerra Mondiale alla Jugoslavia. Ebbene, fu proprio in quella Fiume d'annunziana che prese vita e forma quel triangolo tricolore, quello scudetto, e oggi capiremo anche l'origine di questo nome, che di lì a poco diventerà il simbolo dei campioni d'Italia e degli azzurri di tutti gli sport. Ne parliamo oggi con il nostro primo ospite, scrittore, giornalista, saggista e membro della Società Italiana di Storia dello Sport, Marco Impiglia. Grazie per essere oggi qui a Olimpia, la città dello sport. Sì, buonasera a te Dario. Allora Marco, guidaci sulle tracce dello scudetto. Siamo a Fiume nel febbraio 1920 e si gioca una partita di calcio davvero particolare. La data esatta è l'8 febbraio 1920. È stata riportata in maniera erronea sul web e in altre situazioni, ma in realtà quella domenica dell'8 febbraio di pomeriggio si giocò a Campo di Cantrida a Fiume questa partita voluta così da D'Annunzio, che all'epoca era il capo, insomma il capitano della reggenza del Carnaro, voluta così per pacificare le sue teste di ferro, quindi i suoi invasori, diciamo così, D'Annunzio con la popolazione locale. Quindi fu questa partita tra una squadra fiumana e questi legionari di D'Annunzio. Quindi fiumani contro d'annunziani, per capirci. E toglimi subito una curiosità: dal punto di vista tecnico, che partita fu? Quel che si legge soprattutto sulla vedetta, insomma, che era il giornale fiumano, e poi dalle poche fotografie che l'inviato della Gazzetta dello Sport, Repetto, pubblicò sullo Sport Illustrato, che è il settimanale dell'epoca della Gazzetta, si evince che la partita fu di scarsa qualità tecnica, ma di discreta invece qualità agonistica. Tant'è vero che D'Annunzio fece riferimento alla squadra fiumana dicendo: voi siete veramente delle teste di ferro, perché di testa, insomma, davano queste zuccate al pallone di cuoio, che all'epoca era molto più pesante. Forse la cosa gli fece impressione a D'Annunzio. Vincono quindi i fiumani, che visseranno il successo poi anche qualche mese dopo. Ci fu una rivincita, riperdita, chiamiamola così, perché rivinsero ancora i fiumani, le teste di ferro, insomma, i legionari persero ancora. Tra l'altro in quella squadra di fiumani comunque c'erano anche alcuni giocatori che poi avrebbero partecipato alla squadra di Fiume quando Fiume venne ammessa per motivi politici alla fine degli anni 20 nella prima Serie A. Insomma, a Fiume si gioca a calcio e dire che il vate col pallone non aveva poi una grande dimestichezza, vero Marco Impiglia? D'Annunzio, quando nel 1885 aveva avuto tra le mani un pallone sulla spiaggia pescarese, datogli dal suo amico musicista Tosti, aveva provato a dare un calcio alla palla e era finito praticamente a faccia in giù, si era pure fatto male. E pensava all'epoca che fosse un gioco demente il calcio. Invece, nella seconda partita del 9 maggio, lui praticamente inaugura, così introduce la partita facendo tutto un excursus sulla nobiltà del calcio, del football, perché proveniva dal calcio fiorentino, quindi si era comunque perlomeno interessato alla storia del calcio, ecco. Ecco, almeno quello. Ma ecco, è proprio in queste due sfide che spunta sulle maglie azzurre dei Dannunziani quel triangolino di stoffa tricolore. Lo scudetto nasce intanto nel mistero, perché punto uno, non sappiamo chi effettivamente diede l'ordine di mettere lo scudetto. Probabilmente D'Annunzio, ma è una supposizione che ho fatto io e poi è stata un po' ripresa da tutti quanti, perché questa è una mia ricerca che data addirittura al 1995. Punto 2, abbiamo un triangolino bianco, rosso e verde che probabilmente venne cucito a mano in qualche modo, ma la cosa interessante è che non c'era, diciamo, lo stemma sabaudo, no? Era bianco-rosso, per cui questo triangolino bianco-rosso-verde in qualche modo aveva un carattere così politico o comunque polemico nei confronti di Casa Savoia, che stava osteggiando questo colpo di mano di D'Annunzio per riportare Fiume all'Italia dopo, insomma, le vicende politiche e diplomatiche che avevano invece fatto sì che Fiume fosse una città libera, insomma, non assegnata praticamente. Quindi abbiamo trovato lo scudetto, ma come fa quel triangolino a saltare poi sulle maglie dei campioni d'Italia del calcio? Nell'estate del 1924 la FIGC si riunisce e decide di apporre il distintivo d'onore, così viene chiamato, no? Per cui il Genoa, che aveva vinto lo scudetto, sarà la prima squadra ad apporre questo distintivo d'onore, scudetto di tricolore, e poi magari fare i propri tournée in Sud America appunto con questo distintivo. Però la cosa interessante è questa: il primo distintivo del Genova è praticamente quasi uguale a quello di D'Annunzio, cioè un tricolore, solo che la foggia dello scudetto non è più sannitico antica, bensì diventa svizzera, quindi un po' appuntita verso il basso. Poi però negli anni successivi cambia questo scudetto, perché prima il Bologna si mette dentro lo scudo sabaudo, quindi ritorna conforme praticamente alla bandiera nazionale. Poi ancora il Bologna nel 29, accanto al tricolore ci mette il fascio e anche lo scudo sabaudo, fa una specie di logo antelittera praticamente, che sono tre simboli affiancati uno all'altro. E infine la Juventus, la grande Juventus del ciclo 1931-35, toglie sto logo e lascia soltanto lo scudo sabaudo classico, quindi bianco e rosso listato d'azzurro Savoia con la coroncina sopra, con a fianco il fascio. Da quel momento lo scudetto è questo qui, è questo simbolo appunto con lo scudo sabaudo e il fascio, ed è proprio negli anni 30 che si parla di scudetto per la squadra che appunto che vince il campionato italiano, mentre prima si diceva distintivo d'onore. Però su questo D'Annunzio non ha alcun merito, vero? Tutti i documenti della FIGC degli anni 20 e 30 sono praticamente andati perduti nel marasma della Seconda Guerra Mondiale, per cui non abbiamo, come dire, il documento che prova che in quella certa data, quando praticamente la FIGC si è riunita e ha deciso mettiamo il distintivo dall'anno prossimo, ecco, non abbiamo questo documento, non sappiamo chi ha fatto la proposta addirittura e non sappiamo quindi se c'è un legame diretto tra lo scudetto del 1920 d'Annunziano e lo scudetto approvato dalla FIGC nelle estate del 1924, tra l'altro in una seduta fatta a Bologna. Quindi c'è questo legame, insomma, particolare, Fiume, Bologna, Torino, perché poi è Torino comunque che cambia lo scudetto, e ancora Torino, perché la storia bellissima, come dire, ha la sua degna conclusione nel dopoguerra. Dai, toglici anche questa curiosità, Marco. La mia ipotesi è questa: così come a Fiume si era messo un triangolino semplice perché insomma bastavano tre pezzettini di stoffa, ci faceva lo scudettino, così nel 45, in un momento altrettanto difficile dal punto di vista economico, anche col fatto che non si poteva più mettere il vecchio scudo Savoia con a fianco il fascio, qualcuno ha detto, beh, siamo campioni d'Italia, lo scudetto, che scudetto ci mettiamo? Quello vecchio non lo possiamo usare. Facciamo tre striscette tricolori e questo è il nostro scudetto. La cosa interessante è che poi il Grande Torino era anche la nazionale e quando c'è la prima partita del dopoguerra a Firenze con la Svizzera si ripresenta il Grande Torino con questo scudetto sulla maglia azzurra. Da lì in poi questo scudo tricolore del Grande Torino, il Grande Torino e D'Annunzio ci hanno dato lo scudetto italiano. E ancora, e infine, da dove nasce la parola scudetto? Secondo le mie ricerche, l'uomo che è stato responsabile, insomma, di questo passaggio al distintivo scudetto è stato Carlin Bergoglio, questo disegnatore molto famoso del guerriero sportivo, che per primo, facendo le sue vignette dove la zebra è messa in raffronto col balanzone bolognese, dice, beh, adesso quest'anno ti frego lo scudetto. Ed ecco là che infatti si comincia a parlare di scudetto. Nasce così questo bellissimo simbolo italiano negli anni 20 e 30. Davvero un viaggio straordinario, Marco, in Piglia, quello in cui ci hai guidato dentro e intorno ai misteri dello scudetto. Allora Marco, prendiamoci un istante di pausa, poi qui a Olimpia ci raggiungerà un altro ospite per scoprire insieme qualcosa in più del D'Annunzio sportivo. No, è bella mamma, non è questa. Sì, suggestiva, sì, ma non è nemmeno questa. Eccola, questa sì che è la vostra imprescindibile colonna sonora, da ascoltare quotidianamente per avere a fine giornata un quadro chiaro ed esauriente di ciò che di più importante è successo in Italia e nel mondo. Effetto notte, di Roberta Giordano. Dal lunedì al venerdì alle 21, su Radio 24. Olimpia. Figlio molto probabilmente del genio creativo di Gabriele D'Annunzio e del fascino granata della leggendaria maglia del Grande Torino. Questi abbiamo ricostruito nella prima parte di Olimpia i padri putativi dello scudetto, quel triangolo di stoffa tricolore che compie proprio quest'anno il secolo di vita. Ma ancora molte curiosità da scoprire intorno proprio al rapporto tra il vate, Gabriele D'Annunzio, e lo sport. Curiosità che continuiamo a esplorare insieme allo storico dello sport Marco Impini. Ben ritrovato a Olimpia, la città dello sport. Buonasera a te Dario. Mentre saluto anche Gianmarco Menga, amico e collega di Mediaset e pur autore di uno splendido volume edito da Libreria Croce dall'emblematico titolo Sportivamente D'Annunzio. Grazie mille dell'invito, buonasera Dario. Ecco Marco Impiglia, che tipo era il D'Annunzio sportivo? Emerge una figura a tutto tondo, direi quasi un Davide, un Mosè, insomma veramente una statua d'alto livello, perché D'Annunzio, che pure veniva dalla piccola aristocrazia abruzzese, aveva fatto il collegio Cicognini e quello era un collegio dove praticamente facevano parecchi sport, tra i quali per esempio la scherma, poi anche l'equitazione. Lui era molto bravo a cavallo, il fox hunting, la caccia alla volpe, fu una delle sue specialità. Poi era anche un discreto nuotatore, se la cavava col pugilato, praticamente quando stava nella sua villa in Bretagna, a un certo periodo si era fatto in camera un punching ball con delle treccine di una bionda femmina vere e dava colpi a questa palla che poi aveva appunto il viso di una donna amata. Quindi era un personaggio, poi l'amore per i levrieri, no? Unico cane che secondo lui valeva la pena di avere perché era indipendente, come le donne, insomma, lo vedeva indipendente. L'automobilismo anche, perché il nome automobile alla femminile venne dato proprio da D'Annunzio, mentre prima lo chiamavano maschile. I MAS, quindi i motoscafi, insomma veramente poliedrico con il suo interesse per lo sport. Gianmarco Menga, quindi sport centrale anche nell'estetica d'annunziana. Lo sport per lui è stata una vera e propria musa ispiratrice. Lui diceva che le sue più grandi opere letterarie sono state concepite mentre cavalcava, quindi aveva bisogno del movimento anche per ispirare la sua mente. È stato un vero e proprio sportsman, perché anche se non si è rilevato in maniera eccellente, eccezionale in qualche sport in particolare, è stato però uno, credo, dei primi intellettuali a comprendere quanto lo sport stesse diventando fenomeno di massa tra l'Ottocento e il Novecento, e quindi comunque ha cercato sempre di avere un occhio d'attenzione ai vari sport, ne ha praticati diversi, sicuramente per la sua indole era molto più attratto da quelli individuali, possiamo immaginarne il motivo, ha praticato comunque equitazione, la scherma, facendo tra l'altro anche molti duelli per difendere il suo onore, però comunque non ha neanche abbandonato l'attenzione verso sport, gli sport di squadra, in particolare il calcio, perché sappiamo una delle chicche più importanti riguarda appunto la genesi dello scudetto tricolore, che va appunto, è una scoperta che va attribuita a Gabriele D'Annunzio. Col calcio però Gianmarco, come già ci raccontava Marco Impiglia, rapporto a dir poco complesso è quello di D'Annunzio. Sappiamo che in realtà non ebbe un rapporto molto molto intenso con il calcio, soprattutto nella giovinezza. Sì, sappiamo che giocava con i suoi amici a Francavilla al Mare in spiaggia, però fu maggiormente attratto dagli sport individuali. Però sicuramente l'invenzione nel periodo fiumano del 1920 lo ha fatto entrare un po' comunque nella storia del calcio, anche se oggettivamente credo si possa dire non sia stato il suo sport preferito. E quali invece appunto le discipline che più amava, che meglio gli riuscivano? Diciamo che andando anche un po' a scartabellare i documenti, le pagelle, soprattutto durante il periodo collegiale al liceo Cicognini di Prato, diciamo che lui prese vari premi nella scherma. Quindi nonostante non fu un grandissimo schermidore, se mi dovessi sbilanciare direi che comunque nella scherma se la cavava. Anche nel pugilato, avendo comunque avuto modo di vedere parecchi incontri di box durante il suo soggiorno in Francia all'inizio del Novecento, però poi se parliamo di D'Annunzio e lo leghiamo allo sport, non possiamo dimenticare la sua nomina, anzi la sua vittoria a sportivo dell'anno da parte della Gazzetta dello Sport. Questo è un passaggio molto importante, perché nella motivazione che viene data per questo premio si sottolinea il volo su Vienna, che è stato un volo simbolico, un gesto sportivo appunto e non militare, perché D'Annunzio getta su Vienna volantini e non bombe, ed è un messaggio mediatico straordinario che viene indirizzato agli austriaci. Ecco, questo è un altro passaggio davvero molto importante. Marco Impiglia, sai dirci qualcosa in più di questo D'Annunzio, addirittura atleta dell'anno? Nel 1922 la Gazzetta dello Sport fece un referendum per votare ai suoi lettori l'atleta dell'anno, e scappò fuori D'Annunzio. Nel 1921 i fascisti, Farinacci in testa, chiesero esplicitamente a D'Annunzio di capeggiare lo squadrismo fascista, quindi di prendere il posto un po' di Mussolini. Cioè D'Annunzio, con questa sua attività così di spericolato, insomma, guerriero, aveva un po' esaltato le folle, soprattutto coloro che avevano un empito nazionalistico molto forte. Stiamo parlando dell'anno successivo alla fine della Grande Guerra, insomma. Gianmarco Menga, tu accennavi invece anche all'amore per i motori. Se leghiamo D'Annunzio allo sport, non possiamo dimenticare la sua passione per i motori, sia quelli su terra che sia quelli su aria. Abbiamo parlato del volo su Vienna, il velivolo, tra l'altro lo stesso termine coniato da D'Annunzio ed è entrato nei vocabolari, ma anche su terra la sua passione per l'alta velocità, soprattutto nei suoi ultimi anni al Vittoriale, durante i quali si dilettava appunto a correre con le sue numerose automobili. E poi ci ricordiamo appunto la parola automobile coniata al femminile e certificato il genere femminile dell'automobile in una lettera diventata storica, inviata da Agnelli, il presidente della Fiat, e in questa lettera appunto lui motivava il sesso femminile dell'automobile, perché è docile, si lascia guidare, prende le curve. Ecco, questo credo che sia un altro aspetto molto curioso che lega comunque in qualche modo D'Annunzio allo sport. E qual era invece, Gianmarco, il rapporto tra il Vate e gli sportsmen, i campioni del suo tempo, della sua epoca? Ma in realtà è stato sempre molto diffidente, ma in generale nei confronti non solo dei personaggi sportivi, ma anche, diciamo, di tutti i personaggi, degli intellettuali che hanno cavalcato la sua epoca, anche altri scrittori, mi viene in mente Pascoli, che soffriva un po', ecco, questa venatura anche sportiva di D'Annunzio che lo rendeva celebre ovviamente anche al di fuori dell'Italia. Uno sportivo che lui cita in un suo romanzo è Jack Johnson, comunque un pugile importante, il primo afroamericano a vincere il titolo dei pesi massimi. Si interessava comunque a parecchi sportivi, però diciamo che un rapporto confidenziale non l'ha avuto con nessuno, neanche con il grande Bartali, che vinse due volte la tappa davanti al Vittoriale, che fu fatta appunto finire davanti alla sua reggia in onore di Gabriele D'Annunzio. Ecco, abbiamo l'attestazione di questi due giri alla metà degli anni 30, nel secondo anno in cui venne replicato appunto questa tappa al Vittoriale. Sappiamo che D'Annunzio, ormai tra l'altro verso il tramonto della sua vita, non scese neanche a salutare, ecco, i vincitori come aveva fatto l'anno precedente, i vincitori del giro. E allora, che questa chiacchierata sia spunto anche per ritornare sulle tracce del D'Annunzio scrittore e poeta, oltre che sportivo. Intanto grazie a Gianmarco Menga e Marco Impiglia per essere stati oggi ospiti di Olimpia, e in bocca al lupo per i vostri progetti futuri. Grazie a voi e grazie a te, Dario. Grazie a te, crepi il lupo e viva lo scudetto. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.